Benvenuti a tutti, puntata numero 10 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017. Boa di metà stagione superata, quintetti e All-Star Game resi pubblici, non ci resta altro che partire con le top performance della settimana e con il nostro mashup settimanale. 18 gennaio, Philadelphia non sembra avere intenzione di fermarsi, batte anche Toronto Raptors per 94-89. Per Embiid 26 punti e 9 rimbalzi in 27 minuti, per Iliasova 18 con 3 su 6 da 3 punti. Isaiah Thomas ne mette invece 39 nella sfida che i suoi Celtics però perdono contro i Knicks. Senza Porzingis, con un Anthony non in serata e tra mille difficoltà, ci pensa il redivivo Derrick Rose con una prestazione da 30 punti e 10 rimbalzi. Come tutte le volte che Derrick Rose offre prestazioni del genere, si grida al miracolo e ci si domanda: tornerà mai a essere il giocatore di un tempo? La risposta ovviamente è no, ma è il caso di accettare che l'ex MVP ed ex Chicago Finest sta viaggiando a praticamente 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist di media, assolutamente non male. I Golden State Warriors incontrano invece gli Oklahoma City Thunder per l'ennesimo faccia a faccia tra Westbrook e Durant, gli ex compagni. A parte un'infrazione di passi che ha dell'incredibile, il caro Westbrook va al solito in tripla doppia con 27 punti, 15 rimbalzi e 12 assist. Perde anche 10 palloni nel frattempo e tira 1 su 6 da 3 con 9 su 23 dal campo. Il suo ex compagno gioca invece una gara surreale, tirando con 13 su 16 dal campo e 5 su 7 da 3 punti per 40 punti e 12 rimbalzi. Aggiungete una doppia doppia di Draymond Green e 24 punti di Curry per capire la direzione in cui si è incanalata la partita. Golden State vince 121-100, il parziale decisivo è nel terzo quarto, finito 37-22 per i Warriors. 19 di gennaio, da segnalare nella notte un super Dragic a Miami con 32 punti e 6 rimbalzi. 34 di Anthony, ma i Knicks si piegano ai Wizards di un John Wall stellare da 29 punti, 13 assist e gli ultimi 4 punti decisivi per il risultato finale di 103-100. 29 punti e 16 rimbalzi invece per DeAndre Jordan, sconfitto con i suoi Los Angeles Clippers dai Minnesota Timberwolves di un Karl Anthony Towns da 37 e 12 rimbalzi. Infine bella sfida tra Spurs e Nuggets, con un Kawhi Leonard da 34 punti e un Nikola Jokic dall'altra parte da 35 e 12 rimbalzi. 20 di gennaio, ci sono i Golden State Warriors a Houston in casa di James Harden. Il barbone gioca più per la squadra che per se stesso, segna 17 punti, smazza 11 assist e cattura 7 rimbalzi. Prova mastodontica di Capela invece con 22 punti e 12 rimbalzi in 21 minuti partendo dalla panchina. 17 anche per Decker, sempre uscendo dalla panchina. Ma dall'altra parte ancora una volta Galeotto fu il terzo quarto, Golden State lo domina ancora una volta vincendolo 37-22. Curry segna 5 triple e chiude con 24 punti, Durant con 32. 3 triple anche per un Draymond Green da 15 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Houston tira da 3 con 7 su 35, Golden State fa assolutamente meglio con 15 su 38, soprattutto segnando da dietro l'arco nel momento in cui è giusto dare la zampata decisiva attraverso il parzialone che chiude di fatto il match quasi un quarto e mezzo prima della sua naturale fine. Tutto il quintetto degli Warriors chiude in doppia cifra, anche Zaza Pachulia con 10 punti e 9 rimbalzi. Altra vittoria dei Sixers, il rimonte all'ultimo tiro, stavolta contro i Portland Trail Blazers di un Damian Lillard a 30 punti. Andate a rivedervi gli highlights dell'ultimo minuto, Robert Covington segna 2 triple negli ultimi 40 secondi con cui completa la rimonta e sorpassa Portland, chiuderà con 22 punti ed è delirio a Philadelphia. Potenziale prestazione della settimana per Rudy Gobert di Utah. I Jazz battono i Mavs 112-107, Gobert segna 27 punti con 8 su 11 dal campo e poi cattura 25 rimbalzi, di cui 10 offensivi. Devastante. 21 gennaio, ci sono gli Spurs che vanno a far visita ai Cleveland Cavaliers alla Quicken Loans Arena vincendo 118-115 dopo un tempo supplementare. Partita indubbiamente interessante, impreziosita da una prova mostruosa di Kawhi Leonard che chiude con 48 punti. 16 anche per la Marcus Aldridge e solida bella prestazione di squadra per i texani. Dall'altra parte 14-12 rimbalzi per Tristan Thompson, 29 punti per un LeBron che di fatto manda la partita all'overtime con una tripla da distanza pazzesca, fuori ritmo a meno di 40 secondi dalla fine, 29 di Kyrie Irving. Nell'overtime 1-0 su 2 a meno di un secondo dalla fine di Lamarcus Aldridge dalla lunetta regala l'ultima chance per Cleveland, 6 decimi di secondo però sono un po' pochi, un tiro esce ma non trova neanche il ferro, Spurs con Corsari a Cleveland. Portland batte i Celtics e la sfida testa a testa è tra CJ McCollum, 35 punti, e Isaiah Thomas, 41. New York ancora sconfitta in casa contro Phoenix, Devin Booker ne segna 26 compreso la tripla che fissa il punteggio sul 107-105 per i Suns a circa 30 secondi dal termine. Carmelo Anthony 31 punti, avrebbe in mano il pallone e il tempo a disposizione per cambiare il destino del match, niente da fare, Knicks di nuovo sconfitti in casa, di nuovo in volata. Da segnalare anche i 42 punti e 14 rimbalzi di DeMarcus Cousins nella sconfitta dei Kings contro i Bulls di un Dwayne Wade da 30 punti. A una manciata di secondi dalla fine, sul 99 pari, Wade si invola in contropiede solitario e vola a canestro per una apparente facilissima bimane. Stacca forse un po' troppo presto e sbaglia clamorosamente la schiacciata. Gli arbitri però rilevano un presunto fallo della corrente DeMarcus Cousins, che per la verità sfiora appena Wade quando praticamente ha già sbagliato. Il fallo non esisterebbe in nessuna dimensione possibile e immaginabile, ma l'erroraccio arbitrale salva i Bulls da un'ennesima sconfitta casalinga. 22 gennaio. Scandalosa partita dei Lakers contro i Dallas Mavericks, conclusasi 122-73. Los Angeles segna 33 punti nei primi due quarti e chiude con il 38% dal campo e il 14% da 3, oltre a 18 palle perse. Partita imbarazzante nell'anniversario di quel match entrato nella storia in cui Kobe Bryant segnò da solo 81 punti contro i Raptors, 8 in più di quelli fatti in questo soporifero match della sua ex squadra. Ne parleremo più avanti. Golden State invece nella stessa notte risolve la pratica Orlando Magic grazie ad un essenziale contributo dei suoi Big Three, in particolare gli Splash Brothers sugli scudi da dietro la linea dei tre punti. Curry chiude con 7 su 13 da 3 e 27 punti, Klay Thompson con 7 su 9 per 21 punti. 23 gennaio, Golden State prosegue la sua trasferta ad est, stavolta in casa dei Miami Heat. La gara procede in sostanziale equilibrio, ci sono 21 punti per Curry con anche 10 rimbalzi ed 8 assist, 22 per Klay Thompson e 27 per Kevin Durant. Dall'altra parte domina Whiteside al rimbalzo con 15, Dragic mette 19 punti, ma il protagonista della notte è Dion Waiters, ex compagno di Durant lo scorso anno ad Oklahoma City, che risolve la partita prendendosi la tripla praticamente allo scadere che gela Golden State Warriors 105-102. Waiters chiude con 33 punti, segna una tripla alla Steph Curry contro Steph Curry, assolutamente non male. Malino invece i Cleveland Cavaliers, che perdono di 2 contro i Pelicans. Tripla doppia di LeBron con 26 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. 16 rimbalzi per Kevin Love con anche 22 punti. 49 punti per Kyrie Irving con 8 su 14 da 3. Ma dall'altra parte serata di grazia per i Pelicans. Ci sono 36 punti e 11 rimbalzi per Terrence Jones. 33 per Jrue Holiday. New Orleans senza Anthony Davis vince per 124-122. Notizia che fa notevolmente infuriare Kim James, che a fine partita sbotta criticando il momento della squadra e caldamente riconsigliando l'auspicato arrivo di un playmaker di riserva. Chissà se arriverà con il mercato. 24 gennaio, Spurs battono in volata i Raptors in casa per 108-106 con 21 punti di LaMarcus Aldridge e 18 di Perry Mills dalla panchina. Dall'altra parte non bastano 30 di Kyle Lowry e 21 di Terrence Ross. Philadelphia non si ferma più invece anche senza Embiid e Okafor. Ne fanno le spese i Clippers stavolta, 121-110. Nonostante i 27 punti di Jamal Crawford, i 22 con 5 triple di JJ Redick, i 20 di Rivers e i 20 rimbalzi di Andre Jordan. Va detto però che continua a non essere presente Chris Paul. In casa Sixers quasi tutti i giocatori che entrano arrivano in doppia cifra di punti, con 19 di Noel e 18 di Rashawn Holmes dalla panchina. 16 vinte e 27 perse in questo momento per Philadelphia. La rincorsa all'incredibile ottavo posto ad est continua per quanto insperata. I Timberwolves nella stessa notte la vincono invece all'ultimo tiro contro Phoenix per 112-111. L'ultimo tiro è appunto di Andrew Wiggins, che chiude la partita con 31 punti e 6 rimbalzi. Andate a rivedervelo perché probabilmente è il canestro della settimana. In casa Suns, super prova di un redivivo Tyson Chandler. 22 punti, 17 rimbalzi e 2 stoppate. Questa settimana la NBA ha ufficializzato i quintetti per l'All-Star Game, sperimentando per la prima volta un mix di votazioni che affianca al volere del pubblico, che al solito opera scelte bizzarre, anche se quest'anno ha un po' esagerato, anche le scelte dei coach e degli altri giocatori della Lega. Soluzione al centro di copiose discussioni, per quanto in definitiva poco importante, trattandosi di una partita di puro spettacolo, spesso lontanissima da un punto di vista agonistico e di gioco dalla pallacanestro come dovrebbe essere. Malgrado questo, i quintetti decisi. Ad est partono LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, DeMar DeRozan, Kyrie Irving. Ad ovest invece Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Stephen Curry e James Harden. Ovviamente numerose le polemiche rispetto agli esclusi. Se da una parte l'NBA tira un sospiro di sollievo per aver evitato con una quasi legge ad personam la convocazione in cui detto di Zaza Pachulia, che secondo i fans sarebbe arrivato secondo nel front court ovest, dispiace la defezione di Joel Embiid, che è stato al centro di una vera e propria mobilitazione dell'ultima ora e sarebbe riuscito a raggiungere il voto popolare sufficiente per entrare tra i primi 5 ad est. Al suo posto, sorprendente ma tutto sommato meritata la convocazione per Giannis Antetokounmpo. Diversa la questione rispetto alle due guardie ad est, probabilmente tra i giocatori più in forma del momento e della stagione, attualmente fuori. Si tratta di Isaiah Thomas, che viaggia a medie spaventose, e Kyle Lowry. Soprattutto la point guard di Boston avrebbe indubbiamente meritato il quintetto. Scegliete voi al posto di quale delle due guardie ad est. Ad ovest invece, altrettanto clamorosa l'esclusione del giocatore che sta viaggiando in una tripla doppia di media, Russell Westbrook. Indubbiamente, per quanto la sua stagione sia comunque ottima e rappresenti la miglior squadra della Lega, sarebbe stato onestamente più giusto probabilmente escludere dal quintetto Steph Curry, anche se dobbiamo renderci conto che rappresenta, a livello di marketing, uno dei simboli della Lega al momento. Il problema è proprio circoscritto alla questione del marketing e allo show vero e proprio che l'All-Star Game rappresenta. Non vedremo sicuramente una partita, vedremo un'esibizione di un numero di atleti incredibili, auguriamoci meno svogliati delle ultime edizioni. A onor del vero, comunque, super stagione per Stephen Curry, appare forse meno devastante ovviamente rispetto a quella incredibile dello scorso anno. Comunque, non che Stephen Curry non si meritasse l'All-Star Game, non che Stephen Curry non si meritasse il quintetto, probabilmente, come avevamo già detto, tra i tre, Curry, Westbrook e Harden, dando per scontato che Harden deve stare per forza dentro perché probabilmente è il momentaneo MVP della Lega, Westbrook con una tripla doppia di media a mio avviso non può restare fuori, quindi dovete escludere per forza uno, sicuramente quello che, non dico ha disatteso le aspettative rispetto allo scorso anno, ma quantomeno sta giocando a un livello lievemente inferiore, anche perché, ripeto, impossibile ripetere la prima metà di stagione di Curry dell'anno passato. Andiamo avanti rapidamente con la rimembranza della settimana. Abbiamo citato precedentemente l'anniversario degli 81 punti in una sola partita di Kobe Bryant contro i Toronto Raptors il 22 di gennaio del 2006, la seconda miglior prestazione realizzativa di sempre in una singola partita NBA. Saprete sicuramente che la migliore è quella risalente al 3 febbraio del 1962 ad opera di Will Chamberlain. Questo signore, tra l'altro, porta il nome sopra 6 delle 10 più grandi prestazioni realizzative della storia. Escluso la già detta per mano di Kobe, gli altri nella top 10 sono rappresentati dai 71 punti di Elgin Baylor, dai 73 punti di David Thompson e dai 71 punti di David Robinson. È questa la nostra rimembranza della settimana, anche perché, in ordine cronologico, la più recente se si esclude appunto la performance di Kobe. Era il 29 aprile del 1994 e San Antonio giocava a Los Angeles, sponda Clippers. Non erano anni splendidi per i Clippers, lo erano invece per gli Spurs, almeno in regular season. Molto prima dell'arrivo di Tim Duncan c'era ancora Dennis Rodman a fianco dell'ammiraglio, a guidare una squadra che era destinata a sciogliersi come neve al sole ai playoff. Quella per gli Spurs era l'ultimissima partita della stagione e il titolo di capocannoniere della stagione doveva ancora essere assegnato, testa a testa tra, appunto, David Robinson e Shaquille O'Neal ai tempi agli Orlando Magic. Ora, tra Shaq e Robinson non c'è mai stato un grandissimo feeling personale, soprattutto a sensazione da parte di O'Neal. Il motivo esattamente non lo conosco, forse l'evento scatenante è proprio quello che successe in quella sfida incrociata tra i due, in due campi separati, due notti separate. San Antonio gioca completamente per l'ammiraglio quel 29 aprile, nella loro ultima gara, come detto, contro i Los Angeles Clippers. Lui chiude con una prestazione pazzesca, 71 punti, 25 canestri da 2, 1 da 3, 18 tiri liberi messi a segno. Gli Spurs vincono 112-97. La media punti stagionale di Robinson si attesta a questo punto a quota 29.8 punti di media, considerate di 112 punti, ne segna 71. Per batterlo, Shaq può soltanto, la notte seguente, segnarne 68 nell'ultima sfida dei suoi Orlando Magic contro i New Jersey Nets. Inutile dire che non ce la farà, Robinson vinse così il titolo di miglior realizzatore dell'anno in una bizzarra sfida al photo finish, raramente ne sono capitate simili. Ma la vera impresa, se vogliamo dirla tutta, dell'ammiraglio Robinson in quella stagione, la sua miglior partita di sempre probabilmente, la giocò contro i Detroit Pistons, mettendo insieme una quadrupla doppia, cioè quattro categorie statistiche in doppia cifra nella stessa gara, Non valgono ovviamente le palle perse, altrimenti Westbrook ne avrebbe fatta un'altra anche questa settimana. David Robinson chiuse con 34 punti, 10 rimbalzi, 10 assist e 10 stoppate, diventando insieme a Nate Diamond, Alvin Robertson e Hakeem Olajuwon il quarto a riuscire a farlo e soprattutto quello che nel farlo mise a segno il maggior numero di punti totali. Benissimo, piccolissima e brevissima rimembranza proprio sull'ammiraglio Robinson, torneremo a parlare degli anni 90 quando avremo spazio e tempo. Vi ricordo, questa puntata la potrete sentire come tutte le settimane in streaming su Radio Big World alle 21.30 ogni giovedì. A partire dal venerdì mattina, scaricabile e ascoltabile in podcast sul SoundCloud di Radio Big World e su YouTube con il video impreziosito dalle immagini di Belly 13. Abbiamo anche un blog, potete poi trovare tutto lì, compreso gli highlights e i filmati ripresi da YouTube delle partite di cui abbiamo parlato anche in questa puntata, www.medium.com/NBA Week. Grazie ancora una volta per l'ascolto, ci risentiamo la settimana prossima.